Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24. La passione si sente anche in viaggio. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Parlando di Timira, questo romanzo meticcio con gli autori Vuming 2 e Antar Mohamed Marincola, e di questo personaggio di Isabella, una donna di una straordinaria prontezza di spirito, ironia, determinazione, una donna fuori dagli schemi. Nel romanzo dice il personaggio di Isabella: io ho sbagliato tutto nella mia vita. Questa è una cosa straordinaria. Spiritosa, che vive intensamente, che chiama il figlio bugiardo, che passa da tradimenti a debolezze, un personaggio molto umano. Che scarto c'è, Antar, tra il personaggio Isabella e Isabella, mamma e persona reale? In realtà il progetto di Timira era un progetto tra Giovanni e Isabella, e quando Isabella muore il 30 marzo del 2010, io la prima persona che chiamo, che viene a casa la sera all'una, lei muore di infarto a casa sua, e la prima persona che chiamo è Giovanni. Dopo 10 giorni, dopo aver fatto tutte le pratiche, io chiamo Giovanni e dico: senti, pensando a questo progetto che avevate, a cui tenevate tanto tu e Isabella, non so, io mi rendo disponibile a finirlo assieme a te. Ci siamo posti, siccome io ero anche un protagonista all'interno, come rendere questo protagonista, quindi come. E allora abbiamo giocato molto il tono della come Sancho Panza e Don Chisciotte, no? Isabella fosse il capo, io fossi un po' un subalterno, uno che comunque doveva risolvere dei problemi, che sono veri, cioè nel senso, quando mia madre venne dalla Somalia, dalla guerra civile, nonostante fosse una profuga italiana, cioè quando le dicono al assessorato alle politiche sociali del comune di Bologna: signora, non se ne torni nel suo paese, quando lei aveva tutte le carte che dimostravano che era una profuga rimpatriata dalla Somalia, dal governo italiano, con un C-130, e siccome tante di quelle cose che noi abbiamo raccontato erano vere, però era come rendere quelle cose, che c'era sotto anche una vena un po' di rabbia, no? Perché dici: ma come, scusa, mi rimpatri e poi mi dici torni nel tuo paese? E da lì che nasce per noi anche tutta la questione di Giorgio, dice: ma allora, se io non sono italiana perché sono scura, perché l'Italia è un paese razziale più che razzista, nel senso, essere italiani vuol dire essere bianchi, in Italia è di 6 milioni di persone che non sono più bianche, cosa sono queste persone che nascono anche qua? Quindi allora la domanda grossa era: per chi è morto Giorgio, per quale paese, e che cosa sarebbe Giorgio adesso? È una morte inutile. Allora rendere una complessità di una storia come quella di Giorgio, come quella di Isabella, quella mia anche, perché di tutte quelle persone che hanno un po' il colore nostro in questo paese, in un'Italia sempre più furibonda che adesso sta pensando di bombardare la Libia, e come dire, quindi tutta la memoria coloniale, la memoria che preme, no? La Libia è un bel suol d'amor, 1911. Oh, Giovanni, è molto interessante anche la riflessione che lei fa all'interno sul colonialismo e la possibilità di scrivere di tutto questo, no? Di tradurre anche, se tradurre sia ancora una volta utilizzare il colonialismo. Certo, sì, soprattutto io me lo sono posto nel momento in cui sono andato da Isabella dicendole proviamo a raccontare la tua storia, a me sembra che quello che hai vissuto possa essere interessante per un romanzo. Lei mi chiedeva ma alla fine che cosa vuoi fare esattamente, no? E io lì per lì all'inizio le avevo proposto guarda Isabella, adesso noi facciamo appunto quattro chiacchiere per un po' di tempo, io ti faccio delle domande, registro tutto, poi sbobino quello che abbiamo registrato, lo sistemo in forma romanzesca, in forma narrativa. E lei di fronte a questa proposta mi ha detto vabbè, ma così il romanzo lo scrivi tu. E io mi sono reso conto che in qualche modo stavo riproponendo anch'io un atteggiamento colonialista, no? Per cui di colui che appunto va nella terra dell'altro, fa suoi tesori che trova, li rielabora, li utilizza come vuole lui e poi vuole anche la conferma che tutto quello che ha fatto va bene, no? Cioè poi all'altro deve pure stare bene, ti deve pure lodare per quello che hai fatto. A quel punto lì ho ringraziato Isabella perché con quella sua semplice frase, così il romanzo lo scrivi tu, in qualche modo mi ha aiutato a decolonizzarmi, no? Ci sono sicuramente zone ancora colonizzate del nostro cervello di europei e quindi a quel punto le ho detto guarda, io effettivamente ho una certa esperienza di scrittura collettiva, scrivo di solito insieme ad altre tre persone, forse avevo paura di farlo con una persona come te, hai più di 80 anni, insomma ci dividono tante cose, però se vuoi proviamo a farlo così. E allora lei a quel punto ha detto va bene, così ci sto, se ognuno di noi scrive una parte, ne ragioniamo insieme e nel farlo ne discutiamo, ci sto. Poi purtroppo lì è invece intervenuta la natura e la morte naturale di Isabella a interrompere questa prima idea sul modo di scrivere il romanzo, e però diciamo abbiamo tenuto fermo il punto che dovesse essere un romanzo meticcio anche nel modo di essere scritto, e quindi anche con Antar abbiamo proceduto nello stesso modo, cioè discutendo della scaletta, dividendoci parti, scambiandoci le parti, correggendoci a vicenda, riscrivendoci a vicenda e mescolando insomma gli inchiostri, le penne, per ottenere un risultato finale che ognuno dei due sentisse suo. Sentiamo ancora Isabella in un contributo tratto dal film Riso Amaro, no? Un film, un capolavoro del neorealismo nel quale lei ebbe una piccola parte. Irene, accidenti, quanti soldati vanno in campo da queste parti. Il Parunghi aveva messo a disposizione la cassina per qualche mese, ma adesso li manda via perché siamo arrivate noi altre. E come fai a saperlo? Sei uno che conosco, è di Conegliano come me. Stasera vado a trovarlo, sai? Fai alla svelta. E insomma, in questo film Riso Amaro di De Santis, oltre a Sivana Mangano, compare questa strana mondina nera ed era Isabella Marincola. Antar, lei aveva questa ambizione cinematografica, l'ha avuta per un certo periodo della sua vita. Vita che è stata lunga e densa di episodi, di situazioni diverse, di amori, di debolezze. Forse proprio questa voce irriverente, spiazzante, che non aderisce per nulla allo stereotipo di profugo a cui siamo abituati, è l'originalità del libro. Sì, non, che poi profugo, Isabella aveva un carattere che è quello che credo che venga fuori abbastanza chiaramente nella storia di Timira, quindi noi, certo la condizione è una condizione, il profugo non è che va a coprire l'umanità e la perspicacia di una persona, è una condizione che può capitare a chiunque attraversi un paese in guerra, quindi non questo, il fatto di la resa forse anche più indomita, più grintosa, riproporre il discorso di suo fratello fratello in realtà era, come dire, riconfermare a sé, a se stessa e all'Italia che essere italiani si può anche esserlo con colori diversi, con lingue diverse di origine e con religioni. Quindi rompere questa chiusura di fondo di questo paese, no? Che con le difficoltà oggi credo che stiano anche aumentando, no? Questo libro, lo dicevamo, è stato scritto qualche anno fa, però sembra parlare proprio dell'attualità di adesso. C'è un passo in cui si scrive: Antari in questi giorni sta incontrando decine di profughi somali in un campo di raccolta alla periferia di Bologna. Sono affidati alla protezione civile come se si trattasse di una valanga o di un maremoto. E la protezione civile manda a chiamare Antar perché spieghi ai profughi di non farsi illusioni. L'Italia non è il paese dei balocchi. Antar allora spiega ai protettori civili che i profughi lo sanno già di essere cascati male e che chiederebbero volentieri asilo da un'altra parte se non ci fosse una legge che li costringe a farlo nel primo stato in cui vengono fermati, schedati e concentrati. Tu intanto traduci, gli rispondono allora, come se fosse un interprete e non un mediatore. Giovanni, è un libro che parla anche dell'Italia di oggi. Sì, sicuramente sì, intanto perché l'Italia di oggi in fondo non è poi così diversa dall'Italia del 2010-2011, cioè del periodo in cui scrivevamo questo libro, e perché l'Italia di oggi è ovviamente figlia di dinamiche, storie, vicende che hanno cominciato a determinarsi nel contatto tra l'Europa e l'Africa, in questo caso contatto di tipo coloniale. Quindi credo che sia un libro che attraverso la vicenda di una persona, i suoi andirivieni tra Italia e Somalia, Isabella ha fatto insomma più volte questo viaggio, tra l'altro in maniera differente, no? Con modalità diverse, fino a farlo addirittura da profuga. Ecco, penso che attraverso la vicenda di questa persona il romanzo riproponga proprio un tentativo di interrogarsi sull'origine di quanto viviamo oggi, e di solito insomma interrogarsi su un'origine, rintracciarla, cercare di comprenderla, è un modo appunto per capire poi gli esiti di quella origine. Quindi è un libro che in fondo parla delle trasformazioni, della genesi e delle trasformazioni del razzismo italiano, dell'idea di cittadinanza che va per la maggiore in Italia, e cerca in qualche modo di farsene una ragione, appunto interrogando il passato, cosa che di solito chi affronta la questione dei profughi oggi, appunto guarda caso della Libia, dell'Eritrea, della Somalia, molto spesso sono questi i paesi i cui nomi ritornano nelle cronache. Ecco, molto spesso chi poi si interroga su questo presente non sa nulla o sa molto poco, solo storie stereotipate su che cosa quei paesi sono stati per la storia del nostro paese, che cosa il nostro paese ha fatto in quei territori. Sambusi somali. Ingredienti: una cipolla bianca, tonno in scatola sott'olio, un peperone verde, succo di limone, farina, pepe nero, peperoncino, cumino, sale, quanto basta, un bicchiere con farina ed acqua. Fate una pasta con farina, acqua, sale e olio, senza lievito. Tiratela in una sfoglia sottilissima e tagliatela in forme rotonde, più o meno come pizzette. Lasciatela asciugare e scottatela rapidamente in padella. Quindi occorre tagliare ogni tondo in quattro parti, lungo due diametri, ottenendo quattro parti triangolari, che ripiegherete come sacchetti ad avvolgere il ripieno. Poi incollerete l'ultimo angolo per friggerli in olio di semi d'arachide bollente, rigirandoli. Toglierli appena avranno un colore marrone. Il ripieno può essere di verdure o di carne. Per le verdure si usano cipolle, peperoni tagliati a cubetti, pomodoro, peperoncino piccante, patate e carote già cotte in modo da ammorbidirle. La carne si usa tritata e grigliata, senza condimento. Mettete in un'ampia padella larga tutti gli ingredienti, il tonno sgocciolato e schiacciato con una forchetta, e lasciate sul fuoco il tutto sino a che il succo di limone non sia evaporato. Togliete dal fuoco e lasciate riposare per 30 minuti. Aggiungete il cumino e poi usate la miscela come ripieno. Una volta riempiti i fazzolettini di sfoglia con il ripieno, li si frigge nell'olio bollente per servirli ancora caldi. Io ringrazio Antar Mohamed Marincola per essere stato con noi questa sera. Buona serata. Grazie anche a voi. Grazie. E grazie tanto, anche a Wuming 2. Buona serata. Grazie, buonasera. Allora, la rubrica dei libri questa sera non c'è perché il libro ve l'abbiamo già consigliato ampiamente, Timira Einaudi Editore, un libro delle mirabili avventure di Isabella Marincola e di tutti noi profughi su questa terra. Paolo Corleone in regia, a tutti voi un saluto da Valentina Furlanetto, a sabato prossimo. You've got to give a little, that's the glory of love.